capito? No, l'Africa bombata, quello che mi viene in mente, sono troppo veloce per quello che mi viene in mente, Hey Mr. Rapper, senti le mie rime, sono fuori tonalità, questo è il bello, è questo il bello, Hey Mr. DJ, senti queste rime che ti smazzo, come so è veloce ma io sono lento, non mi vengono le parole in mente, non so cosa dire, ma so che Adam Chani c'è, vado sul suo letto, so dire solo le stesse cazzate, non so se vado in tempo, ma Tony 2000 mi ha fatto la strada, come sale, come sale, entro nel beat, come, sono spingato su beat, non so andare al tempo, sono spingato su beat, sono spingato su beat, non so andare al tempo, non so andare al tempo, è come se mi fossi fumato una canna, perché non so andare al tempo, sono spingato, heavy handcore, fuck it beat, un po' l'Africa bambata, perché, sa un po' di non importa perché, fatto elettronica dopo di loro, senti questo beat, senti, mi sono impappinato, perché questo beat è veloce, io sono lento con la testa, ma anche con la lingua, ora ti faccio un beat all'anni 80, siamo tutti bene, siamo felici, siamo... Ah sì? E sai cosa ti dico? Oh shit, damn boy. That's right? Sì, è proprio così che io entro nel beat, perché sai com'è, tu non puoi premere repeat. Io ti dico, vado con il mio pit. Oh! Andiamo nel pita, scuopare con tutti quanti, perché sai com'è, io vado nel pit solo perché così posso tirare fuori il mio dick. Io mi chiamo Dick, come il mio amico Pit, che in realtà si chiama Dick. Io gli ho succhiato il dick, io mi sono sentito così bene, perché il suo sperma mi è entrato nelle vene, il mio sperma è diventato come il sangue del patato, è il sangue del patato, il mio sperma, perché sei con me, sangue noi siamo patato. Tanti, ogni giorno ci sentiamo respingenti, competenti, sei con me, noi ti vediamo e ti diciamo che te non puoi stare qui, è così. Perché tu sei un bimbo, io bevo il caffè Kimbo, invece tu no. E invece io mi reggo un Kindle, perché io non uso Amazon, e vado su Audible a sentire il podcast di Barba Scura X e poi Nova Lezio che mi racconta di Sigonella quando sono con la mia bella. Io mi bombo la mia bella pensando a Sigonella. Sì. Io abbecchino crack, mi fumo il crack, è il momento del crack, quando crack, MC, tutto è amico Pir, ti succhiati il cazzo, ma io non sono omosessuale del cazzo, sono eterosessuale, non lo so, forse sì, forse no, James Brown sulla traccia, ti faccio sentire queste rime che mi smazza il suo beat, sedicesimi, trentaduesimi, ottavi, questi sono i beat che mi piacciono a me, sono lento, però con la testa ci vado ancora a rilento, senti questo beat, Adam Cianni sulla traccia. No, non è vero stavolta. Parla di Pilz, il tuo amico Pilz, quello a cui sa chi il dì. Yeah, vai nel cespuglio, cespuglio. Sa chi dì nel cespuglio al povero Pilz che sta nel cespuglio. Sbarra nella faccia, sbarra nella faccia. Sbarra negli occhiali, sbarra negli occhiali. Ma io parlo di cespuglio. Sì, parlo di... Finita. Finita.